America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. Send me the bill, I will sign it. The shutdown will be over and we can get back to the business of governing and helping the American people. L'apparenza pubblica resta quella di un muro contro muro per la battaglia sulla serrata e sul rinnovo del tetto sul debito americano, ma dietro le quinte si apre qualche spiraglio. La Casa Bianca ha detto di essere interessata e disponibile a quella che sembrava una proposta di Boehner della settimana scorsa, cioè di spacchettare il bilancio dal tetto sul debito e di passare una misura temporanea che consenta di rinnovare questo tetto sul debito, ma queste continuano ad essere scaramucce non risolutive. Dunque oggi vorrei occuparmi d'altro. Ieri c'è stato un interessante dibattito sul futuro dell'energia al Council on Foreign Relations. Da una parte Paolo Scaroni, amministratore delegato dell'ENI, dall'altra Christophe de Margerie, l'amministratore delegato della Totale. Abbiamo con noi in linea Paolo Scaroni per discutere proprio di questo dibattito di ieri. Buongiorno Scaroni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei vede una preoccupazione per l'Europa dal punto di vista competitivo, perché l'America riesce ad approvvigionarsi di gas a un costo molto inferiore. Ecco, in che termini? La rivoluzione dello shale gas viene giustamente festeggiata negli Stati Uniti, che raggiungono l'indipendenza e che hanno bassi costi dell'energia. Purtroppo questi bassi costi dell'energia non ci sono in Europa, al punto tale che gli europei pagano il gas il triplo che negli Stati Uniti e l'energia elettrica il doppio. Questo sia i cittadini, famiglie, sia le imprese. Allora, di fronte a queste situazioni, immaginare che in Europa ci sia una ripresa dell'industria, soprattutto una ripresa degli investimenti, è piuttosto difficile. Questi investimenti verranno senza dubbio attratti dagli Stati Uniti. Ecco, e come facciamo allora? Beh, io questa la considero una vera e propria emergenza dell'energia in Europa, che poi diventa immediatamente un'emergenza economica. Allora dobbiamo innanzitutto metterci a cercare anche noi lo shale gas in Europa, vivendo un po' la stessa rivoluzione che hanno vissuto gli Stati Uniti. Da questo punto di vista l'Inghilterra, sempre pragmatica, non ha fatto tutte le chiacchiere e le discussioni che si fanno in tutta l'Europa continentale sullo tema dello shale gas e si è lanciata alla ricerca di questi idrocarburi non convenzionali. In mancanza di questo, se per caso lo shale gas non si trovasse, come facciamo? Dobbiamo andarlo a cercare in quei paesi che oggi sono fornitori dell'Europa e che hanno anche loro interesse ad avere un cliente prospero che ritiri il loro gas e che consenta anche a loro di rimanere prosperi. Allora questo riguarda tre o quattro paesi, tutti extracomunitari, a cominciare dall'Algeria, ma naturalmente prima di tutti il primo fornitore dell'Europa, che è la Russia. Rifornendosi da loro quindi si può ottenere un costo comparabile a quello americano? No, dunque da un punto di vista della competitività del gas russo, questo è un gas molto competitivo in termini di costi di estrazione. Poi dipende tutto dai prezzi a cui russi, algerini, libici e norvegesi vogliono vendere questo gas all'Europa. Io credo che il problema diventerà così acuto, questo differenziale di prezzi tra l'Europa e gli Stati Uniti, che si dovranno intavolare delle negoziazioni non solo commerciali con questi paesi, in particolare con la Russia, ma che abbiano una caratteristica un po' strategica, che cerchino di salvaguardare per noi la nostra competitività e per Russia, Algeria, Norvegia i loro clienti, perché anche loro hanno un interesse ad avere dei clienti prosperi. Ecco, parlando del futuro, il moderatore David Rubenstein, ricordiamolo, è il cofondatore del fondo Carlyle, uno dei più importanti fondi di private equity al mondo, ha detto: ma se ciascuno di voi avesse $1 miliardo da investire, dove lo mettereste? E lei ha parlato di due cose, di un investimento più rischioso e di uno meno rischioso. Sì, guardi, allora ho parlato innanzitutto delle batterie, cioè nel mondo la tecnologia non si è sviluppata sul terreno di conservare, stivare l'energia, e questo mi sembra un problema importantissimo per tanti settori. Le automobili elettriche non avranno successo fino a quando non sapremo conservare l'energia elettrica a basso costo, con bassi pesi e per lunghe durate, e così via. In particolare le rinnovabili, che sono per loro natura intermittenti, perché perché il solare c'è quando c'è il sole, l'eolico c'è quando c'è il vento, senza delle batterie efficienti saranno sempre un modo non soddisfacente di dotarci di energia. Quindi le batterie sono la prima cosa. La seconda, più banale, ed è una cosa molto americana, bisognerebbe investire nel consentire alle automobili, ai camion e anche alle navi di funzionare invece che a petrolio, funzionare a gas, a metano. Questo perché negli Stati Uniti i prezzi del metano sono così bassi che si potrebbe molto convenientemente trasportare, trasferire i motori a combustione da petrolio a gas. Ecco, per chiudere, ci sono altre ipotesi di esplorazione. Lei ha detto che è interessato all'esplorazione artica, anzi state esplorando nell'Artico. Il suo collega francese era più prudente, dice ma non voglio correre troppi rischi, però chi non risica non rosica. Beh, insomma, noi come Eni abbiamo una lunga tradizione di attività nell'Artico e in particolare siamo stati la prima compagnia che ha fatto la prima scoperta nel mare di Barents norvegese e in parallelo stiamo anche lavorando sul mare di Barents russo e quindi per noi resta un terreno su cui vogliamo continuare a operare. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, dopo 12 anni dal loro album di debutto, gli Uncanny Valley tornano con un nuovo disco, degli Uncanny Valley, Invisible. And now I'm biting my nails and I'm calling it dinner. Southern man is living city life. Lives just disappear into the night. And I watch the faces on the passing trains. And I see a sweet smile and it's going my way. But I'm invisible, yeah, that's me. If you look then you'll see right through me. Someday I'm gonna make my move. What do I got to lose? Da New York è tutto, Simone ti ripasso la linea, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.